Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno. Mi dicono che dal prossimo sabato torneremo insieme alle 15. Ma siamo pronti? Siamo sicuri? Siamo pronti? Ce la possiamo fare tornare insieme alle 15 e non alle 15:31 e 45 secondi, solo per farvi capire che siamo in diretta con il sabato pomeriggio di Radio 24. Il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. Subito i numeri per raggiungerci: 349-238-6666 per i vostri SMS e anche per i vostri WhatsApp, 349-238-6666. Se invece preferite usare Twitter, c'è il mio account @MartaCagnola, e Marta Cagnola anche il mio account di Instagram. Vi pungesse vaghezza di usare Instagram, c'è anche quello, @MartaCagnola anche per quello. Qual è il tema dell'ora e mezza di questa settimana del sabato del villaggio, prima dell'ora di RadioTube? Prepariamoci, perché questa settimana parleremo d'amore. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, nah, nah. Let me love you, lascia che io t'ami. Oddio, detta così sembra un po' più aulica di quello che cantava Justin Bieber, ma va bene così. Parliamo d'amore e parliamo anche di tecnologia a quest'ora. Come si sposano le due cose? Lo chiediamo subito a Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, ciao a tutti. Ah, come se tu fossi qui con me, ma è come sempre collegato da un luogo misterioso, non vogliamo sapere da esatto. Dove. Esatto. Enrico, come mettiamo d'accordo l'amore e la tecnologia? Beh, perché chi è appassionato di tecnologia ama la tecnologia. Fine. Ah, no, tutto qua. No, non è vero. Sì. Enrico, per una volta, cerca di essere un filo allora, più romantico. Allora, noi oggi abbiamo il nostro esperto di sistemi, servizi di incontri online, perché da, diciamo, già da prima che ci fosse la tecnologia come la conosciamo oggi, da quando c'erano solo i giornali di carta stampata, esistevano dei servizi di incontri. Uno inviava la propria fotografia, il proprio profilo, scriveva magari un pensiero, e c'erano dei sistemi per incontrare un'altra persona. Ok. Spesso accadeva, e soprattutto negli Stati Uniti accadeva, con i giornali, la stampa locale. Stampa locale perché tendenzialmente magari tu vuoi incontrare una persona che sia non a 2-3 ore di macchina da casa tua. Mettevi l'annuncio. Esattamente. Con l'arrivo della tecnologia, degli smartphone, di internet in particolare, poi ovviamente gli smartphone ci hanno messo del proprio e hanno creato delle cose nuove, più divertenti da un certo punto di vista, tutto questo si è digitalizzato con una esplosione in termini di numeri, perché molte più persone utilizzano anche proprio per facilità questi servizi, e poi la tecnologia ha contribuito a rendere il tutto più sofisticato, perché ci sono degli algoritmi, famosi algoritmi, che oramai pilotano molti ci dei servizi. Ci fanno ogni tanto paura, sono l'idea dell'algoritmo, sì, che prevede tutto, tutte le nostre, sì, reazioni, gusti, tutto. L'algoritmo è una cosa in realtà molto complicata, sono una serie di numeri, non è una cosa semplice, e anzi direi che molte delle aziende più grandi che lavorano su internet si basano su un algoritmo che è proprietario, che è brevettato, che è il cuore dell'azienda. Se non funziona, cioè pensate se un giorno cominciasse a non funzionare più bene l'algoritmo di Google, o meglio, se un'altra azienda trovasse un algoritmo che funziona meglio, perché non è che poi Google funziona benissimo sempre, a volte non troviamo quello che vorremmo trovare e magari c'è, ma il motore di ricerca non riesce a trovarlo, c'è tutto un dibattito sulla qualità della ricerca, quindi non è escluso che poi prima o poi qualcuno trovi qualcosa di più intelligente. E quindi anche bravo, l'amore magari c'è, ma non, l'algoritmo non riesce a trovarlo. Esattamente, esattamente. Emanuele, buongiorno, benvenuto. Presente. Ciao, ciao Emanuele. Eccolo qua. Piacere di sentirvi. Dunque, Emanuele è un esperto di questi sistemi, li ha provati sia per passione, per divertimento, per curiosità. Devo dire che poco fa, prima di andare in onda, stavo pensando che dovremmo trovare anche una esperta di questi sistemi. Ah, certo, certo. Mi bisognerebbe trovare anche il lato femminile, sì. Quindi lanciamo il messaggio, se ci sono delle... delle esperte di questi sistemi si facciano vive, noi le interroghiamo, cioè vediamo se sono veramente esperte e poi le proveremo. Certo, certo. Allora Emanuele, diciamo subito cosa sono questi servizi di incontri, si chiamano servizi di dating però tradotti in italiano di incontri online. Sì, esatto, o meglio, incontri online, si spera poi che l'incontro non sia online. No, certo, poi diciamo che il discorso online è semplicemente una piattaforma che permette di far incontrare, di mettere insieme due profili che si possono ritenere compatibili. Poi è chiaro che la parte veramente importante è la parte offline, in cui la tecnologia non c'entra niente e in cui le persone si devono successivamente incontrare dal vivo. Il sistema, il meccanismo di funzionamento è molto molto semplice, bisogna compilare un profilo che è più o meno dettagliato a seconda della piattaforma. Si imposta un certo tipo di target e il sistema poi dal canto suo fa una serie di proposte sulla base della posizione, degli interessi e via dicendo. Anche se costano? Ecco, importante questa domanda. Costano? Costano. Allora, diciamo che queste piattaforme permettono, direi tutte, di creare un profilo gratuitamente e molte anche di interagire, questo soprattutto le versioni mobile, quindi le app. Per avere tutte le funzionalità a disposizione, di solito però il servizio diventa a pagamento. Ce ne sono alcuni con un forfettario mensile, quindi il classico sistema ad abbonamento, e in alcuni casi anche abbastanza elevato. Altri che restano invece formalmente gratis, ma che per sbloccare appunto tutte le funzionalità richiedono l'acquisto di gettoni, di cose di questo tipo. Sì, okay. Ma ci sono, è vero che ci sono delle piattaforme che hanno dei costi anche molto elevati, poi è tutto relativo, ma anche di decine di euro al mese? Sì. Adesso parlando della mia esperienza, io sono iscritto ad alcuni siti e in uno pago tendenzialmente sui 39-49 euro al mese. Sono più seri se si paga? Faccio proprio la domanda indiscreta. Allora, in linea di massima, non tanto il discorso della... cioè non c'entra tanto la serietà della piattaforma, ma piuttosto le persone che si trovano, nel senso che più le persone pagano e più sono veramente interessate ad avere una storia seria, questo sì. Mentre nelle piattaforme, quelle gratuite, eccetera, magari uno va anche per scherzare, per ridere, eccetera, senza necessariamente avere intenzione di prendersi un impegno serio, questo sì. È interessante. Beh, non è secondario questo problema, non è secondario, perché magari tu ti fai l'illusione di avere una conoscenza che possa portare a qualcos'altro e invece dall'altra parte c'era solo qualcuno che voleva scherzare. Ottima considerazione. Ma posso dire che comunque dalla mia esperienza il sistema funziona, in generale il sistema del dating online genericamente detto funziona. Poi è chiaro che ci sono piattaforme più serie e meno serie, piattaforme più affollate e altre meno. Tra a proposito, negli ultimi anni prego. È stata una vera e propria impennata soprattutto delle versioni mobile. Ecco, infatti sulla versione mobile volevo fare una domanda. Che differenza c'è e soprattutto quali tipi di servizi o novità sono arrivate con le app? Ma guarda, allora, c'è fondamentalmente la grossa bipartizione, quella tra il desktop e il mobile, nel senso che offrono delle esperienze d'uso che sono proprio diverse. Quella desktop possiamo dire che sia un po' più completa, per cui abbiamo più informazioni da inserire, le schede sono più dettagliate, ci sono chat, ci sono email da inviare, eccetera, mentre quella mobile è un pochino più rivolta all'immediatezza, quindi trovo una persona nelle vicinanze, la foto mi interessa, mi intriga, mi piacciono le informazioni, la contatto. Dopodiché è chiaro che l'esperienza deve trasformarsi in esperienza offline e la tecnologia non ha più nulla a che vedere. Però è proprio diverso l'esperienza d'uso tra desktop e mobile. Perfetto. Okay. Per fare un esempio, io credo di averla ancora scaricata. Avevo provato Appen. Quando era nata c'era stata una grande curiosità e quindi io ho detto vabbè, scarichiamola e vediamo cosa succede, proprio in maniera trasparente e sperimentale. Ed effettivamente è quel meccanismo lì, qualcuno che ti scrive, ti ho visto, ti manda un cuoricino, ti ho visto mentre passeggiavi in Porta Venezia, è così? Sì, esattamente, sono... Diciamo che l'aspetto più, io adesso ho parlato prima dell'immediatezza d'uso, però in realtà il discorso del dating via smartphone ha un altro aspetto, un'altra caratteristica che è ancora più importante, cioè quella della geolocalizzazione. E tutte le applicazioni mobile si basano appunto sulla distanza tra le persone, proprio per fare in modo che se io trovo una persona con la quale io ritengo di essere compatibile, posso contattarla e vedermici 10 minuti dopo. Certo, certo. Cioè, faccio una domanda sull'algoritmo, visto che prima abbiamo parlato di algoritmi, allora, quanto di quello che accade, cioè il processo di selezione e quindi di corrispondenza tra una persona e l'altra, viene fatto da macchine oppure quanto viene fatto da, non so se addirittura umani, ma forse no. Certo, guarda, in linea di massima l'associazione viene ancora fatta da macchine. Che esaminano il tuo profilo, gli altri profili e ti associano con uno o più persone che ritengono essere compatibili con te. In realtà ultimamente si sta diffondendo un'app, io adesso non so se posso fare nomi o meno. Ma sì, vai, io okay, sono... Si chiama Once, okay. Nel quale le associazioni vengono fatte da persone in carne ed ossa, che loro chiamano matchmaker, cioè letteralmente persone che creano un contatto. La caratteristica particolare di quest'app è che ogni giorno viene proposto un solo partner col quale si può iniziare un dialogo nelle successive 24 ore. Se non succede niente ne viene semplicemente proposto un altro. Adesso non so se avrà successo da noi, ma sicuramente qualcosa di molto interessante, perché recupera un po' quello che era il concetto pre-internet, cioè dell'amico che ti presenta l'amica sapendo che ci sono delle affinità, eccetera, eccetera. O della vecchia agenzia matrimoniale, che era tutto sommato romantica. Esatto. Grazie Emanuele. Enrico, volevo farti notare che io ho chiesto se si trovano persone che cercano davvero l'amore e tu hai chiesto il funzionamento dell'algoritmo. Vorrei sottolineare la differenza delle nostre delle nostre curiosità in merito. Sì, mi piaceva, infatti secondo me l'aspetto dell'algoritmo è molto interessante. Comunque grazie Emanuele, rinnovo l'invito a trovare una esperta del settore. Sì, infatti c'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. Ho sempre avuto l'impressione che le donne siano sempre più scettiche rispetto agli uomini, ci sono sempre più uomini e meno donne su questi siti di incontri. Vabbè, ma è come nelle discoteche, no? Anche secondo me. E quindi se per caso c'è qualche ascoltatrice che ha qualche esperienza più di me, perché io appunto ho scaricato solo Appen per giocarci un po', così se c'è qualcuno ci faccia sapere, qualcuna ci faccia sapere, perché vogliamo avere anche il punto di vista femminile. No, volevo concludere, visto che mancano pochi secondi, stiamo parlando comunque di un segmento tecnologico che ha un valore impressionante. Qui stiamo parlando di servizi mondiali in molti casi che valgono milioni di dollari, e c'è un business galattico attorno a questo, cioè non è che è un divertimento, no, così, certo. Un passatempo. Grazie Enrico, grazie mille, alla ciao prossima settimana. Ciao a tutti. Salutiamo Enrico Pagliarini, il traffico, e poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta il Sabato del Villaggio. E continuiamo con il Sabato del Villaggio e continuiamo a parlare d'amore. Avrà qualcosa in merito anche da raccontarci il nostro gastronauta? Ciao Davide! Ciao, buongiorno. E come, guarda, amore e cibo sono veramente legatissimi. E poi ci sono stati, diciamo, dei libri, ci sono state poesie, insomma, sicuramente che legano questi due, diciamo, aspetti, e ora te ne parlerò di uno molto particolare, se tu sei d'accordo. Ma volentieri. Parlerò di un libro che si chiama Cucina d'amore, la cucina dell'amore, manuale culinario afrodisiaco per gli adulti dei due sessi. Mm. Allora, è stato scritto nel 1926 da Omero Rompini, un medico catanese, quindi siamo nel periodo che viene definito il periodo dell'Italietta. Ma questo è un libro sui generis, credo che non ne esistano. Perché? Perché questo signore che appunto era un medico e aveva pensato bene di conquistare le donne con delle ricette in base ai colori dei capelli delle donne. Incredibile. Quindi lui aveva preparato tutta una serie di ricette, ma ora ti racconto quali sono i titoli di queste ricette, però non solo le ricette, ma lui sceglieva anche l'ambientazione. Ad esempio, a proposito delle bionde, diceva che la tappezzeria del gabinetto sia intonata al colore delle chiome bionde, preferibili quindi le stoffe di un blu turchese, l'aria sia leggermente impregnata di essenza di eliotropio bianco, sui mobili siano distribuiti a profusione mazzi di violette di Parma e fasci di mughetti, fra cui si sceglieranno i fiori che adorneranno il seno palpitante. E ti dico le ricette. Allora, le ricette erano... Sempre per le bionde. Sempre per le bionde. Astaco all'americana, uova alla messalina, perniciotti alla sultana, piselli all'antica, mele all'eva golosa. Vini, quella era l'epoca in cui si conoscevano solo i vini francesi, quindi diciamo che i grandi amatori e i grandi conoscitori usavano i francesi, quindi Sauterne, Chambertin, Champagne, Buclicot e via di seguito. Io sono mora, ma a me van bene. Allora ti leggo, ti leggo anche alla mora. Okay. Allora, per te, l'ambiente, vabbè, lasciamo stare l'ambiente, il menù era così composto. Sì. Supreme di sogliole alla Destrée, uova affogate alla Cleopatra, fagiani all'orientale, asparagi al verde, bomba diamante, vini Chateau Margaux, e quindi si va sul pesante. Beh, tosto! Teresse secco, champagne Pomery, e quindi forse era sponsorizzato da Pomery e da Veclicot allora. Quindi, come hai sentito, devo dire che insomma qui siamo sulle ricette. Allora però io ti svelerò un segreto. Che io tanti anni fa ho voluto fare uno scherzo, ho invitato a cena un certo numero di miei conoscenti e a tutte ho chiesto il colore dei capelli e tutte erano un po' stupite, dice, ma cosa c'entra se ci invita a cena? A una cena che io avevo detto che era una cena di lavoro, che volevo conoscere certe cose, in realtà era una curiosità. Allora, ognuno di loro mi ha declinato i capelli e ti dirò che mi sono trovato molto in difficoltà perché c'era una rossa e qui su questo manuale le rosse non c'erano, si vede che nel 1920 erano bandite. Comunque io, ho fatto preparare queste ricette, perché sono spiegate in questo libro, da un bravissimo cuoco, ed erano talmente pesanti che io sono convinto che queste signore o signorine, quando gli venivano date queste ricette, addormentavano. Altro che afrodisiache. Erano tutt'altro. Però è interessante questo fatto, perché questo libro poi non è solamente su questo. Questo libro dà tutta una serie di ricette, anche che sono quelle per conquistare senza andare al colore dei capelli. E quindi Ma quindi dell'amore... ti chiedo se esistono i cibi afrodisiaci, secondo te? Ecco, questo è un altro punto. Allora, i cibi afrodisiaci sono una di quelle balle incredibili, perché lo champagne sicuramente, se uno beve molto champagne, alla fine altro che essere brillante, alla fine si addormenta, perché lo champagne è un vino anche di una certa gradazione. Lo champagne si dice che è il vino delle feste perché dà allegria, sì, però se uno non beve una bottiglia, anche se è Don Perignon o un altro vino, sicuramente si addormenta. Le ostriche, ad esempio, non sono afrodisiache, sono semplicemente la raffigurazione del pube della donna, ecco perché. Quindi c'è un certo immaginario. Il foie gras e tutti gli altri prodotti cosiddetti afrodisiaci non lo sono assolutamente. Ora ti do la ragione. Perché non lo sono? Perché non contengono un qualcosa di molto particolare, diciamo, che dia eccitazioni. Ma in realtà vengono prese come cibi afrodisiaci. Perché? Perché portare a cena una donna e se tu gli magari ordini il massimo anche di prezzo, vuol dire che la tiene in grande considerazione. Vuol dire, invece sai cos'è la afrodisiaca? La polenta. La polenta è riconosciuta come un cibo afrodisiaco, quindi il discorso in questo caso non è il valore, non è il costo, ma è sicuramente addirittura Willy Pasini, che è un noto psicologo, psichiatra conosciutissimo, sostiene che polenta e rane sono il massimo del cibo afrodisiaco. Quindi pensa te, magari non c'è nessuna donna che vuole mangiare le rane. Polenta la cucino, sai, gli ascoltatori lo sanno, sono brianzola sulle rane, non ecco, tanto. Vedi, ma io credo che poche, però si sostiene che questa sia più afrodisiaca. Quindi non esistono cibi afrodisiaci, esistono luoghi, momenti che sono afrodisiaci. Quindi facciamo una cena al lume di candela in un posto molto bello, molto romantico, è più afrodisiaco che bere una bottiglia di champagne o mangiarsi 12 ostriche. Ma magari lo è anche un posto di campagna. Sì, ma anche un panino col salame, con l'uomo giusto, ragazzi. Un panino col salame è il massimo, secondo me, dell'afrodisiaco. C'è Valeria in regia che mi sorride sul panino col salame. Panino col salame essere il momento giusto e potrebbe essere perfetto. Il panino afrodisiaco in un prato, con un cestino da picnic, può essere il massimo, secondo me, dell'afrodisiaco. Cioè, tutto è afrodisiaco a seconda del momento e a seconda della circostanza. Quindi c'è molta gente che ricorda dei momenti in cui un cibo è diventato afrodisiaco, ma se tu glielo vai a chiedere, non è mai il cibo. Era quel momento, era un'atmosfera particolare che è diventata poi afrodisiaco. Quindi io credo che afrodisiaco possa essere tutto e possa essere niente. Dipende quindi dalle persone. Però io questo libro lo consiglio. Ecco, allora, siccome abbiamo solo un minuto, ci ripeti qual è il titolo di questo libro, l'autore? Allora, perché mi sembra molto curioso e io stessa voglio leggerlo. Omero Rompini, La cucina dell'amore, manuale culinario afrodisiaco per gli adulti dei due sessi. Tieni presente che questo libro è stato pubblicato ultimamente perché non ci sono più i diritti d'autore e sono passati 70 anni da diversi editori. Certo. Io c'ho Attesa editrice, ma ci sono veramente di diverse diciamo edizioni, e in questa edizione c'è anche un'introduzione di uno storico, che è Piero Meldini, che dà un segno del momento e quindi parla appunto dell'Italietta degli anni 20 e 30. Quindi credo bello, mi piace molto. Davide, Ti ringrazio. Per questo fine settimana abbiamo concluso il nostro tempo, ma siccome la prossima settimana probabilmente ricominceremo ancora alle 15, potremo essere un po' più loquaci e mi piacerebbe cominciare a parlare di Natale la prossima settimana, sei d'accordo? D'accordo, d'accordissimo, parleremo del Natale, poi dell'ultimo dell'anno. Ah, fantastico, grazie a Davide. Ciao, Paolini, presto. Al prossimo saluto sabato. Noi tutti. Diamo la linea al GR e poi saremo ancora insieme. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, con il sabato del villaggio. I numeri per contattarci: 349-238-6666, sia per SMS che per WhatsApp. C'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Stiamo parlando tanto d'amore in questa puntata del sabato del villaggio e sono arrivati tanti messaggi per il gastronauta, che ha parlato di cibi afrodisiaci sì o no, di luoghi particolari per favorire le relazioni sentimentali. Tutti sono d'accordo e sono d'accordo anche con il gastronauta. Afrodisiaco è la donna che hai di fronte e non sempre la è, scrive un ascoltatore. Il cibo è afrodisiaco se mangi con una bella donna, l'unica cosa afrodisiaca è una bella figliola. Insomma, tutti d'accordo, ma l'ha detto anche il gastronauta. Insomma, questa cosa dei cibi afrodisiaci non è così vera. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora, appunto, nella quale parleremo ancora molto d'amore. un grande protagonista della musica degli anni 80, ma anche 90, insomma, ma anche di oggi, di sempre, un progetto romantico anche natalizio. Sono molto contenta perché con noi ci sarà Tony Hadley. Molto molto contenta. I libri del momento con Alessandra Tedesco e poi il Banco Alimentare e il Black Friday con Maria Luisa Pezzali, ma prima tutti i consigli per il fine settimana al cinema. Tu sai da 24 ore che un mago non registrato ha liberato degli animali magici a New York? Sì. Dov'è quest'uomo? Allora, tu sei quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Signor Scamander, lei non sa niente della comunità magica in America? Non lasciamo libere cose. Ehi, signor tizio inglese, il suo uovo si schiude! Gli ha cancellato la memoria, sì, al Nomag. Al cosa? Non magico, al non mago! Scusi, noi le chiamiamo Babani. Questo è un film molto molto atteso dagli amanti, dagli appassionati di una certa saga, di una certa scrittrice. Tanto avrete già riconosciuto il film di cui stiamo parlando. Andiamo a vederlo, questo nuovo film attesissimo, arrivato in questi giorni nei cinema italiani. Franco D'Assisti, ciao Franco. Ciao Marta, ciao. Io penso che non sarà il nostro parere a smuovere il pubblico. No, secondo me gli appassionati di J.K. Rowling sono già andati al cinema, erano accampati il giorno prima. Assolutamente, come è successo per tutto, per l'ultimo libro uscito. Harry Potter e compagnia, diciamo così, hanno sicuramente un pubblico ormai fedele in tutto il mondo. Animali fantastici e dove trovarli. Qualcuno ha parlato di spin-off, forse ancora meno che uno spin-off, perché in realtà di grande legame con Harry Potter c'è questa guida che era già comparsa e un riferimento a Hogwarts durante 2 ore e 10 di film. Quindi insomma, per il resto certo c'è la magia, ci sono i giovani, ci sono i ragazzi, c'è un mondo di babbani, di non magici, c'è un mondo di magici cattivi e di magici bravi. Gli ingredienti sono quelli che hanno fatto le fortune di Harry Potter, ma ovviamente siamo in un'altra storia, una storia che cinematograficamente è sicuramente di grande respiro a livello produttivo, ci mette un po' a ingranare, ecco, questo lo voglio dire anticipando forse un po' il giudizio che ne daremo alla Rosa Purpura più tardi. Soprattutto la prima parte è abbastanza pesante entrare dentro nel clima, però quando si sblocca il film ti concede cose che forse sono anche meglio di alcuni degli ultimi Harry Potter, quindi devo dire, in questo sicuramente gioca un ruolo fondamentale la presenza di un attore come Eddie Redmayne, che sta diventando veramente un numero uno dimostra di poter fare anche questo oltre a tutto quello che ha fatto negli ultimi anni. Colin Farrell, molto noir, molto così, molto un cattivo dentro, e una serie di tanti altri attori di grande livello. Quindi devo dire, è un film che si può vedere anche per chi non ha, diciamo così, proprio la scimmia di Harry Potter attaccata sulla testa, però con questo distinguo di una prima parte un po' faticosa. La scorsa settimana dicevo, chi va a vedere La ragazza del treno non se lo confonda con La ragazza del mondo e viceversa. Questa volta non dobbiamo confonderci gli animali fantastici e dove trovarli con gli animali notturni. Assolutamente, ma due quando animali nella stessa settimana. Quando comprate il biglietto state attenti, ecco, sono diversi. Non solo animali, perché ecco, diventa chiaramente un problema. Sì, Animali notturni è tutt'altro film, un nuovo film di Tom Ford che si sta piano piano, come dire, anche solidificando come regista cinematografico, colui che viene dal mondo della moda, dal mondo patinato, eccetera. Certo, il suo è un film, è un cinema sempre molto stiloso, molto effetto, però qui devo dire con una certa capacità di creare inquietudine in questa storia di una donna molto molto ricca, una gallerista, una donna che commercia in arte, un artista a sua volta, che riceve un un manoscritto del suo ex marito scrittore, e lì in questo manoscritto lo rivive tutto sulla sua pelle. È un, questo manoscritto è un noir, un giallo a tinte molto molto forti, e chiaramente la sua vita viene travolta da questa lettura. Lei si immedesima talmente tanto da viverla, da viverne i sentimenti, e siccome è una storia piuttosto tosta, diciamo così, la sua vita ne viene sconvolta. Non vi voglio dire molto di più perché c'è appunto una parte di giallo, e secondo me è la parte migliore del film, cioè proprio dove Tom Ford entra con le mani in pasta in questa vicenda di una famiglia rovinata da un fatto delittuoso, che è quella scritta, sicuramente dà il meglio, e secondo me anche in maniera abbastanza sorprendente, rispetto invece a quando racconta il mondo dell'arte, del jet set americano. Quindi anche qui un film particolare, chiama questo tipo di tinte un po' soffuse, diciamo, sicuramente ne troverà un film azzeccato. Per concludere, un'uscita italiana, Franco? Allora, voglio citarne una, perché mi sta molto simpatico il protagonista. Si intitola Quel bravo ragazzo ed è la prima prova davvero protagonista di Herbert Ballerina, un volto che magari dice più del nome quando lo vedete. È una storia di mafia, potrebbe essere, potremmo parlare di un PIF ancora più popolare, ancora più, se vogliamo, privo della parte di denuncia che invece PIF porta avanti nei suoi film, pure con queste atmosfere un po' surreali. Qui c'è il surreale comico, ma legato sempre al mondo del malaffare siciliano. Un potente boss mafioso è in punto di morte, scopre di avere un figlio, che è appunto Herbert Ballerina, che è stato tutta la vita in un orfanotrofio, che è un po' un lullone, come si direbbe, e che arriva e per ventura della sorte si trova a comandare la mafia, praticamente a diventare il nuovo super boss, ruolo che interpreterà in maniera abbastanza bizzarra ma con successo, anzi entrando, portando la mafia nel 2.0, facendo un'app per raccogliere il pizzo, insomma non voglio anticipare troppe cose. È un film educato, è un film carino, come si suol dire, corre via bene, sicuramente niente di particolare. Però voglio dire, è interessante, è reso interessante dallo spessore di molti attori siciliani, di quelli che abbiamo visto nei film di mafia veri, Tony, certo, Sperandeo, lo stesso Enrico Loverso, se vogliamo, Nini Bruschetta, Macio Capatonda, cioè, c'è un contorno di attori che danno, secondo me, quella profondità al film che tutto sommato rimane molto divertente, rimane un bel entertainment per il weekend. Grazie Franco, a proposito di entertainment, tutto il cinema che c'è dopo il GR delle 18 alla Rosa Purpurea. Alla Rosa Purpurea con Anne Fontaine, regista di A News Day, sentitela perché è uno dei film, anzi forse è il film della settimana. A dopo, grazie. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Il sabato del villaggio. E apriamo un'altra parentesi, un altro blocco del nostro sabato del villaggio. Stiamo parlando di tanti aspetti dell'amore. Abbiamo parlato di amore tecnologia, abbiamo parlato di amore cibo. E adesso, beh, mi farei accompagnare da uno dei più grandi artisti della musica per parlare ancora di amore, per parlare di amore e libri. Bye. continuiamo a parlare d'amore in questo sabato del villaggio. L'amore ci sta tenendo compagnia. Facile parlarne se si parla di libri, perché ci sarà sicuramente qualche straordinario libro d'amore che ci può consigliare Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Ovviamente io non ti consiglierò un classico libro d'amore, perché su quello, insomma, voglio dire, ne sono piene le librerie, sì, quelle sì, dove possiamo sì, andare sì. a comprarli, e le nostre di casa. Diciamo che l'amore è uno dei temi, come nelle canzoni, più gettonato per quanto riguarda i libri. Non è però facile scrivere bene d'amore. Allora ho scelto un libro particolare, che tra l'altro è uscito da poco in Italia, è di una scrittrice giapponese che si chiama Ito Ogawa. Il romanzo si intitola La locanda degli amori diversi, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Beh, già come si capisce un pochino dal titolo, si parla di amori diversi e di locanda, quindi qualcosa che ha a che fare con il cibo. Allora, ti racconto brevemente la trama, okay. Così diamo, diciamo, le coordinate GPS per, per questo La locanda degli amori diversi. Un giorno questa donna, che si chiama Izumi, ha 35 anni, si è separata dal marito, anzi insomma lui l'ha lasciata con un figlio piccolo a casa, sta sui binari del treno, insomma in una fermata, e vede che c'è una ragazzina, Chiyoko, che poi scopriamo che si chiama Chiyoko, ancora con la divisa, sai, da liceale, quelle le liceali in Giappone, così, sì, in Giappone si usa. E capisce che sta per buttarsi sotto il treno questa ragazza. Lei ha la prontezza di riflessi di fermare questo gesto e ha istintivamente subito quasi un atteggiamento di protezione nei confronti di questa giovane che non ha neanche 20 anni. Allora la invita a casa sua e, come sai, a volte capita fra persone che non si conoscono, entrambe iniziano a raccontarsi la propria vita. Izumi, appunto, le sue disgrazie, diciamo, amorose con il marito, e Chiyoko racconta che è stata ripudiata dal padre della famiglia perché è omosessuale e quindi aveva deciso di farla finita. In realtà poi fra queste due donne, nonostante la differenza di età, inizierà una storia d'amore. Decideranno di andare in un paesino di montagna, quindi lasciare la città, e qui fonderanno la locanda Arcobaleno. E qui il famoso rapporto col cibo, certo, no? Perché poi in questa locanda la gente, gli avventori si fermano sì per mangiare, ma anche per farsi coccolare o comunque per sfogarsi dal punto di vista umano, proprio una sorta di terapia fatta con il cibo e con le parole. Che bello, io ho bisogno un po' di locanda arcobaleno ogni tanto. Chi è che non ha bisogno della locanda arcobaleno? Hai ragione. A chi consigliamo, guarda, questa locanda degli amori diversi? Io lo consiglio a uomini e donne dai 20 anni in su, soprattutto a quelli che si fanno scorpacciata di cioccolato quando magari si sentono un po' tristi, no? Perché poi ho scoperto che anche i giapponesi hanno questo, diciamo, vizio occidentale, cioè di colmare il vuoto emotivo attraverso il cibo. Loro sono magri e noi no. Qual è il segreto? L'ho chiesto alla scrittrice Ito Ogawa e lei mi ha detto: vabbè, ma noi mangiamo per esempio la zuppa di miso, tutte queste cose derivate dalla soia, cioè non la Nutella. Esattamente, non ci attacchiamo alla stecca di cioccolato. Quindi secondo me La locanda degli amori diversi è un romanzo bello, profondo e intenso, dove si può capire anche forme di amore diverse, diciamo, magari da quelle nostre, che però sono assolutamente forme d'amore. Mi piace moltissimo. Ancora libri d'amore? C'è ancora del sentimento, vedo una copertina che mi piace molto, ormai gli ascoltatori lo sanno, quando ci sono delle copertine che mi piacciono già ho un po' voglia di leggere il libro. Lo facciamo sentire la copertina alla radio? Com'è? Quindi copertina? Copertina rigida. Rigida, rigidissima, si intitola Tre figlie di Eva, l'ha scritto la scrittrice turca che ormai da anni vive a Londra, Elif Shafak, pubblicato da Rizzoli. Elif Shafak era diventata famosa con il bestseller La bastarda di Istanbul. Certo. È stato un grande successo internazionale, era stata addirittura poi messa sotto scorta, proprio perché, siccome aveva citato il genocidio degli armeni, insomma in Turchia c'era stato abbastanza clamore su questo romanzo. Adesso torna con queste Tre figlie di Eva, un romanzo attraverso il quale scopriamo veramente tanti aspetti della religiosità e della laicità in Turchia, a partire dagli anni 80 fino ai giorni nostri, perché la protagonista è una donna, Peri, di cui appunto seguiamo le vicende con diversi flashback, appunto quando era ragazzina negli anni 80 in Turchia, nella Turchia di oggi, e anche in un periodo nell'inizio degli anni 2000 quando era stata studentessa a Oxford, quindi aveva avuto modo di confrontarsi con altre realtà. Qui incontra due amiche, una iraniana, Shirin, che è completamente atea, atea, e l'altra Mona, che è americana di origine egiziana e che invece è proprio musulmana praticante, insomma porta anche il velo. E allora diciamo che Elif Shafak ha creato un po' questo gioco fra le tre. Una è la peccatrice, Shirin, appunto quella che non crede, atea. L'altra, Mona, è la credente, e invece Peri è la dubbiosa, perché ha un papà laico e invece una mamma altamente religiosa, un po' come, insomma, chi si trova in Turchia fra questi due, certo, fra questi due aspetti. E devo dire che Elif Shafak descrive perfettamente anche i cambiamenti politici, oltre che quelli culturali, che sono avvenuti negli ultimi anni in Turchia. E mi sembra quindi un libro bello anche da cominciare a regalare. La prossima settimana io comincerò a stressarvi tantissimo con i regali di Natale, così daremo un po' di consigli. Già questo mi piace. Guarda, questo sì, secondo me va benissimo per uomini, donne, come al solito io non faccio differenza di genere nei libri. Diciamo dai 25 anni in su forse certe cose possono essere più comprensibili, soprattutto chi hanno voglia di conoscere la cultura, la storia, le diversità di altri paesi attraverso un romanzo, seguendo una storia. So che c'è un libro che ti ha colpito particolarmente questa settimana e ci tenevi a parlare di questo, di questo libro. Guardalo, che ti ha conquistato. Perché alla radio non si vede, ma delle luci negli occhi, Alessandra. Mi brillano gli occhi. Sì, guarda, sì, l'ho sì, già twittato, quindi chi mi segue su Twitter, su Ali Teddina, lo sa già. Questo libro veramente mi è piaciuto molto. Si intitola Orfani Bianchi, l'ha scritto Antonio Manzini, pubblicato da Chiare Lettere. Manzini, per intenderci, è quello che ha inventato il personaggio di Rocco Schiavone. Ne parleremo questo anche poi a Radio Tube. Adesso polemiche, sono state polemiche, eccetera, eccetera. Vabbè, io non entro nelle polemiche. Comunque Manzini ha ragione. Secondo me la fiction televisiva è molto bella e deve continuare ad andare in onda. Ma a parte questo, ha scritto questo romanzo, Orfani Bianchi, dove Rocco Schiavone non c'entra nulla. Ma l'ha scritto con una intensità, con una empatia e con una profondità d'animo, secondo me, che veramente merita di essere letto. È la storia di una donna, Mirta, moldava, che è costretta a lasciare suo figlio di 11-12 anni in Moldavia per venire in Italia a fare la badante, perché insomma deve guadagnare, certo, dei soldi. Certo. La famiglia italiana, sai, quelle un po' ciniche, i figli dell'anziana donna che lei assiste vorrebbero la casa di questa donna perché vale 600.000 euro, eccetera, quindi decidono di mandare l'anziana madre in ospizio e Mirta perde il lavoro. Perde il lavoro, nel frattempo però nello stesso tempo la madre, quindi la nonna del bambino che teneva il bambino in Moldavia, muore nell'incendio della casa e lei è costretta a mettere questo bambino in un internat. Gli internat sono gli orfanotrofi dell'Est Europa, cosa che naturalmente le spezza il cuore. E Orfani Bianchi sono appunto tutti quei bambini e quei ragazzi che vengono messi negli orfanotrofi quando le madri vanno a lavorare in paesi stranieri per cercare di guadagnare. Quindi c'è un mondo veramente purtroppo allucinante dietro. Che forse dietro però tutto vale ciò la pena, insomma, scoprire anche attraverso un romanzo. Infatti io veramente lo consiglio a tutti, perché veramente è scritto in modo empatico. Non Manzini non ricerca la lacrima facile, ecco, anzi è anche molto duro in alcuni punti, però secondo me è proprio un bel romanzo. Alessandra, ragazzi, dai, bambini, io vi dico, però lo potete comprare da domani in poi, quindi mettetevi subito sul nastro di partenza. Però mi fa proprio piacere citarlo. Allora, l'ha scritto Roberto Piumini, che è uno degli scrittori più importanti e più famosi per bambini. Si intitola Quel che finisce bene, storia di bambini intorno al mondo, edizione PM, Il battello a vapore. E in un certo senso si lega ad Orfani Bianchi, perché in questo caso ci sono 9 storie di bambini di tutte le parti del mondo che però sono a lieto fine. Cioè come questi bambini, questi ragazzi, da soli o con l'aiuto di qualcuno, sono riusciti ad avere una vita migliore. E in questo senso Piumini mescola fatti veri, storie vere, a storie assolute di fantasia. E la cosa bella, tra l'altro, è che per ogni copia venduta un euro sarà devoluto all'UNICEF. Bello, molto bello. Hai detto da domani perché ha qualcosa a che fare con Book City? Sì, ci sarà la presentazione ufficiale domani, appunto, a Book City, a questo Milano, grande festival letterario che si svolge a Milano in questi giorni, e quindi sarà in libreria a partire da domani. E posso dare un consiglio così che, certo, mi è venuto in questo momento? Se i genitori si comprano orfani bianchi, comprate ai bambini quel che finisce bene, storie di bambini intorno al mondo, perché in qualche modo sono, come dire, complementari. Mi piace molto. Alessandra, l'ultimo consiglio è quello del cacciatore di libri. Stasera alle 22 cosa avete da fare? Dovete mica guardare la televisione? No. Dovete mica andare in discoteca? No. Dovete mica cenare? No, tutti attaccati a Radio 24 a seguire il cacciatore di libri, perché c'è l'intervista integrale con Elif Shafak. Ve ne ho parlato prima e comunque se non potete sempre il podcast. Ciao Alessandra, baci. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo insieme 348 3, sapete che riesco a dimenticarmi il numero dei messaggi SMS, che è lo stesso da 10 anni, 349 238 6666, per SMS e WhatsApp. Sarà, no, sono più di 10 anni che questo è 349 238 6666, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Un po' rimbambita oggi, avete ragione, è così, è un sabato un po' allegro. Stavamo anche ridendo durante la pausa con Valeria in regia e con Christian. Allora, facciamo le persone serie, perché questo sabato del villaggio stiamo parlando d'amore in tante declinazioni. Tra poco avremo anche un ospite, vi ho annunciato, sono molto contenta di aver intervistato qualche giorno fa, perché essendo straniera aveva bisogno di una traduzione, quindi qualche giorno fa l'abbiamo intervistato e tra poco sarà con noi. Parliamo d'amore, abbiamo parlato d'amore in tante accezioni, chissà se ha qualcosa a che vedere anche con i consumi, chi lo sa. Del sabato del villaggio stiamo parlando tanto di amore, di sentimenti. Quando parliamo di consumi, insomma, sembra che ci, non dico che ci sia un contrasto, però a volte diciamo che i consumi sono un po' senza cuore. Non è detto, non è detto, vero Maria Luisa Pezzali? Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, saluto a tutti, bravissima Marta. Amore declinato nei consumi, ebbene sì, c'è un'equazione. C'è qualcosa. Uguale solidarietà, quindi ecco. Parliamo oggi, ho pensato, insomma, visto il tema della puntata, di un'iniziativa che torna ogni anno, quest'anno è alla sua 20ª edizione, è un'iniziativa che ci invita a donare parte della nostra spesa a chi ha bisogno. È la giornata nazionale della colletta alimentare, la anticipiamo perché si terrà sabato prossimo, il 26 novembre, quindi possiamo iniziare, Marta, a segnarlo sull'agenda. E soprattutto a non far la spesa grossa oggi. Brava. Oggi facciamo la spesa piccola, tanto con le casalinghe ci siamo capite. Esatto. Facciamo la spesa più piccola, quella più grossa la facciamo sabato prossimo, così già che facciamo una spesa grossa ci mettiamo qualcosa in più. Sì, perché in tutta Italia, tra l'altro, in ben 12.000 supermercati sparsi appunto per il paese, ci saranno questi 140.000 volontari che ci inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che verranno appunto poi distribuiti in più di 8.000 strutture caritative. Ormai questi volontari con la busta gialla, non so a te Marta, ma a me sono molto familiari ormai. Sono familiari e poi ci si fida istintivamente. Io sono, quando li vedo sono tranquilla, perché so che le cose vanno nel posto giusto. E perché dietro a questa iniziativa, a promuoverla, a coordinarla, c'è la Fondazione Banco Alimentare. Noi abbiamo in collegamento il suo presidente, Andrea Giussani. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a buon tutti, pomeriggio. Grazie dell'occasione. Allora, ormai è quasi un appuntamento familiare, lo abbiamo detto così, per molti di quelli che vanno a fare la spesa. Sì, direi che io spero davvero, ma i numeri mi confortano in questo senso, che sia davvero non un'abitudine, ma una ricorrenza fedele per tutti, il fatto che una volta all'anno, l'ultimo sabato di novembre, si fa una spesa in più per chi non ha potuto farla e per chi non può farla tutti i giorni o quando ne ha bisogno. Questa è appunto la colletta alimentare, quest'anno celebriamo la sua 20ª edizione e quindi in qualche modo, mi lasci dire, usando i termini che voi avete richiamato all'inizio, sboccia l'amore anche nei consumi, dico che è 20 anni che si ripete questo atto d'amore. Questo è molto bello perché significa che non è stato un impeto di entusiasmo una volta, ma continua nel tempo. Io ho visto una cosa molto bella dei numeri che mi hanno così davvero fatto riflettere. Nel 96, 20 anni fa, i volontari erano 14.800 e oggi sono oltre 140.000, quindi si sono decuplicati. È credo un fenomeno quasi unico. Sì, da un lato sono decuplicati i volontari e sono anche decuplicati i punti di vendita in cui si fa e quindi anche quanto si raccoglie è aumentato enormemente. Purtroppo dall'altro lato della luna è aumentata anche la povertà in modo significativo e quindi questo numero di questa quantità di generosità, questo numero di persone coinvolte corrisponde anche a un bisogno reale che è aumentato molto, quindi non è solo un entusiasmo, ecco. D'altro canto dico anche che è una bella cosa ritrovarsi ogni anno con amici, parenti, vicini che magari abbiamo invitato a fare insieme a noi questo gesto. Perché il dato sulla povertà alimentare è un dato che molti ignorano, magari pensano sia confinato a paesi lontani da noi, non è così. E certo, i numeri ve ne dico solo due. In Italia oggi si calcola, non lo diciamo noi, lo dice l'Istat, quindi l'Istituto Nazionale di Statistica, che oggi abbiamo in Italia circa 4.600.000 persone che non sanno se domani avranno un pasto completo. Questo significa che quando io uso questa immagine, che è più brutale che non un numero, se noi camminiamo per strada nella nostra città, nel nostro paese, ogni 13 persone che incontriamo, la 14ª è una persona che domani non avrà da mangiare, perché 4.500.000 di persone sui 60 milioni di italiani, questa è la percentuale. E questo vuol dire che la fame è qui. La difficoltà a sopravvivere con gli alimenti che io posso comprarmi è qui a casa nostra, non è nel Centro Africa. La colletta alimentare è una all'anno, però il Banco Alimentare lavora tutto l'anno e tutti i giorni. Come lavorate? Sì, noi siamo presenti alla colletta alimentare perché lo organizziamo, perché coinvolgiamo il pubblico, il grande pubblico. Ma durante ogni giorno dell'anno il Banco Alimentare raccoglie eccedenze della produzione e della distribuzione, quindi ciò che è stato prodotto, ma per una serie di motivi non di igiene alimentare, ma motivi per esempio di pacchetto, di etichetta, di quantità eccessive in un negozio rimaste invendute ma ancora buone, ci vengono donate. Noi recuperiamo tutti questi alimenti e li distribuiamo, dopo averli controllati, a queste 8-9.000 strutture caritative che poi a loro volta le utilizzeranno per le persone indigenti o attraverso le mense o attraverso pacchi famiglia o cose di questo genere. La cosa importantissima da dire quindi è che da una parte evitiamo che si formi rifiuto di un alimento che era ancora buono e quindi lo salviamo dallo spreco e dall'altra lo indirizziamo a chi ne ha bisogno. L'anno scorso abbiamo raccolto e distribuito in questo modo 88.000 tonnellate di alimenti. L'ultima domanda, io so che gli ascoltatori lo sanno già, ma per prepararsi per il prossimo sabato, cosa bisogna comprare da donare alla colletta alimentare? Allora, di massima noi diciamo ognuno doni quello che vuole, sia poco sia tanto, perché quello che conta è essere coinvolti in un gesto di amore, di donazione, di attenzione all'altro. Poi diamo delle indicazioni, perché sono quelle degli alimenti che ci servono di più, perché normalmente mancano, che sono gli alimenti per i bambini omogeneizzati e simili, olio, scatolame in generale, e quindi tutti alimenti più, se volete, preziosi, il tonno per esempio, ma davvero il gesto sia un gesto libero, non sia un gesto da lista della spesa dovuta. Chi più ha più donerà, chi ha meno dona anche solo una scatoletta da 1,50 euro e va benissimo, perché ci interessa che sia animata l'interesse delle persone per la condizione di bisogno che abbiamo intorno a noi e che in qualche modo è anche un po' la nostra condizione di bisogno, quella di sentirci utili. Grazie, che meraviglia. Allora, io l'ho detto, allora, questa settimana si fa la spesa, quella agile che ci metti poco al supermercato. La prossima settimana, con calma, si compra anche qualcosa di più per la colletta alimentare. Grazie ad Andrea Giussani, buon pomeriggio. Grazie a voi, buona colletta a tutti. Che bello, grazie Maria Luisa, che ogni volta ci ricordi ogni anno di questa iniziativa. Io ce l'ho proprio in agenda. Sì, sì, sì, io sono molto affezionata a questa iniziativa. Però, allora, diciamolo, è la prossima settimana c'è qualcosa di molto importante. Compensiamo. Eh sì, perché dobbiamo volere bene agli altri, dobbiamo essere... Ma una cosina di shopping ce la concediamo magari così col nostro solito gioco di comprare in maniera intelligente? Lo facciamo? Sì, ci deve aiutare qualcuno però. Cristina Lazzati, ciao Cristina! Ciao a tutti, eccoci qui pronti per lo shopping natalizio. Per gli altri o per noi, siamo di ampie vedute. Cosa ci hai trovato questa settimana? È tempo del giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, che sarà quest'anno il 24 novembre, quindi come sempre di giovedì, e il 25 parte il Black Friday, per cui arrotate subito le vostre tastiere, perché come ben sappiamo il Black Friday, che ci arriva dagli Stati Uniti, proprio è il giorno dopo il giorno del ringraziamento, quindi chiamato così un po', che non si capisce perché magari uno torna da casa di parenti e amici, perché voi sapete che in America ci si trova tutti per ringraziare col tacchino, esatto, ma è un momento comunque in cui l'America, anche quella di oggi si spera, si apre proprio a tutti quelli che sono arrivati lì per stare meglio, quindi immigrati, e quindi c'è un momento comunque molto familiare, però il giorno dopo uno si mette in coda, e da lì a quanto pare è stato chiamato venerdì nero, perché tanto si spende il giovedì quanto il venerdì per tornare a casa, ci sono code lunghissime ovunque e questa può essere una spiegazione. Però detto questo, partono anche dei grandi saldi, anche in coda in macchina uno può iniziare a acquistare, perché il big che abbiamo anche in Italia è proprio Amazon, che peraltro quest'anno ha deciso di ringraziare un po' prima, perché già sono partiti gli sconti, ogni 5 minuti c'è un nuovo sconto, per cui bisogna sempre stare attenti a che cosa arriva, perché veramente ogni 5 minuti cambia l'oggetto in super saldo. E parliamo di saldi comunque importanti, 40, 50, 60%, che ovviamente durano pochissimo su un numero limitato di prodotti, quindi bisogna essere super pronti. Però diciamo che poi invece il giorno venerdì 25 novembre scatta proprio a tutto spiano, non solo Amazon ma anche Expert, Euronics, Media World, UniEuro, quindi capiamo chiaramente che molti di questi sconti sono dedicati alle tecnologie, e persino Apple è l'unico giorno in cui fa gli sconti sui suoi prodotti, quindi anche gli amanti della mela stiano attenti, perché sul sito di Apple appariranno comunque degli sconti, magari non del 70%, quindi non sognate di portare a casa l'ultimo iPhone al prezzo del modello di 4 anni fa, però diciamo che comunque quello è il massimo dello sconto che potete ottenere. Detto questo, già l'anno scorso ho preso qualche numero, comunque è aumentato addirittura del 33% il fenomeno del Black Friday, sicuramente supportato tantissimo proprio dalle vendite di Amazon. E tra l'altro le cose che sono andate di più e gli sconti che l'anno scorso sono andati di più sono stati sui robot da cucina, sugli smartwatch e sulle fotocamere, i notebook. Certo. Quest'anno staremo a vedere poi su che cosa andremo. Ricordate, chi non ce la fa di venerdì, c'è comunque il Cyber Monday, anche in questo caso da Cyber ci fa capire che staremo molto sulla tecnologia, però qualcun altro poi si metterà in coda e cercherà comunque di avviare questi sconti che sono super autorizzati, per poi tornare al prezzo pieno, perché giustamente, insomma, se i negozi non fanno vendite a Natale, ci chiediamo quando lo potranno fare. Allora, dalla prossima settimana cominciamo a fare le liste dei regali, cominciamo a dare dei bei consigli. Cristina, sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo. Qualche consiglio per affrontare, soprattutto per i neofiti del Black Friday, se ci sono delle cose, soprattutto ci saranno moltissimi giochi per la PlayStation, eccetera, quindi guardate i prezzi prima, in maniera tale da non incappare dei finti sconti, perché al di là di questi grandi nomi ce ne saranno anche tanti altri. diciamo che in linea di massima diamo per scontato che siano tutti onesti, però facciamoci conti in tasca. Fate una lista di quello che vorrete, così non finite per comprare tutto ciò che non vi serve, dimenticarvi e arrivare poi con lo sconto magari che è subito dopo su quello che invece desideravate. Esatto, con la carta di credito vuota. Fissatevi un budget, questo vale sempre, soprattutto quando si trovano le occasioni, però ditevi qui finiamo, cioè questi sono i soldi a disposizione per questo, prima che diventi veramente un venerdì nero per le vostre tasche. E infine fatevi aiutare se avete degli amici bravissimi già che già sono scafati sul Black Friday, beh, chiedete loro aiuto perché effettivamente sta diventando un po' un'arte. È vero, è vero. Grazie a Cristina Lazzati, al prossimo sabato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie anche a Maria Luisa, l'appuntamento con Essere Avere? Domani alle 22, come sempre. Ciao Marta. Ciao Luisa, al prossimo sabato. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presento Il sabato del villaggio. Sto sorridendo per il messaggio di Lorenzo. Siccome mi sono dimenticata il numero degli sms e dei whatsapp, numero che io ripeto da più di 10 anni a Radio 24 perché è sempre lo stesso, 349-238-6666, dice: la notizia sulla tua memoria, Marta, è consolante, meno male che ci sono altri che dimenticano numeri e nomi. Buon pomeriggio, grazie a te Lorenzo, però 10 anni che lo dico sto numero, ma di più, forse 12. 349-238-6666. Facciamo una cosa, andiamo un po' già in clima natalizio e io così vorrei sentire un po' di aria di Natale, così. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that I was told and I wanna tell the world before I get too old. Remember it, so let's assemble it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish. Io sono pronta al clima natalizio, sono pronta ad abbandonarmi a questo clima sognante natalizio. Allora, vorrei parlare di questa canzone, di questo album. Questa canzone si intitola Shake Up Christmas ed è originariamente dei The Train, ma avete riconosciuto la voce che è quella di Tony Hadley, ancora e per anni, e sicuramente per sempre, frontman degli Spandau Ballet, però è anche un solista. Allora, esce in questi giorni, è uscito il 18 novembre, cioè ieri, la nuova edizione di The Christmas Album, cioè il suo progetto musicale natalizio realizzato in Italia con un sacco di brani tra tradizione e brani più contemporanei come questo. E poi ci saranno anche 3 date: 18 dicembre a Roma, 17 dicembre a Roma, 18 dicembre a Torino, 19 dicembre io ovviamente ci sarò a Milano. Tony Hadley, l'abbiamo chiamato qualche giorno fa, gli abbiamo telefonato in Inghilterra, ci ha risposto. Ecco cosa ci ha detto intanto del disco, del fatto che insomma l'ha realizzato in Italia, che è pronto a tornare in Italia. Com'è questa cosa? Come si sente ogni volta che torna in Italia? Cosa provi a tornare in Italia? È sempre bella. Sono stato in Italia anche recentemente per registrare una canzone con Max, giusti? Sono spesso in Italia. Per me, essere sincero, è una seconda casa. Sarà bellissimo tornare perché sarà Natale. Ci divertiremo. Faremo 3 concerti a Roma, Torino e Milano. Non vedo l'ora. Sto imparando un sacco di canzoni natalizie, classiche e no. Ci divertiremo davvero tanto. Good fun, it's gonna be good fun. Il tuo disco è molto italiano. Mi hanno convinto 2 amici, Fausto Donato di Universal Music e Claudio Guidetti, che lavora anche con Eros Ramazzotti. Una sera eravamo fuori a bere qualcosa e ci siamo detti: ma perché non facciamo un album natalizio? È una grande idea. E l'anno scorso, durante le pause del tour degli Spandau Ballet, venivo in Italia a lavorare con Claudio sul disco. Abbiamo avuto anche Kim Wilde, Nina Zilli e appunto Max, giusti, con cui abbiamo registrato un duetto molto divertente. Che cosa provi pensando al Natale? Quest'anno con questo disco sarai con noi, con le nostre famiglie, insomma, canteremo con te. Io amo il Natale. Intanto è un periodo dell'anno molto pacifico. Le luci, i bambini felici, ma sono dei giorni bellissimi, anche per il fatto che non siamo attaccati alle email, che si ricevono meno telefonate, che le persone si incontrino e vadano insieme magari in chiesa o al pub, che possiamo essere normali senza la pressione della vita di tutti i giorni. È una settimana in cui tutti staccano la spina dal mondo reale. E questo è quello che mi piace tantissimo del Natale. Come hai scelto le canzoni e anche le versioni delle canzoni e le persone con cui accompagnarti? Yeah, they're different. We didn't want to make just another Sinatra, another Michael Bublé kind of Christmas album. Sì, sono tutte versioni molto originali. Non volevo fare un altro album natalizio sullo stile Michael Bublé o Frank Sinatra. Volevamo provare a fare qualcosa di diverso. Nina Zilli ha una voce magnifica. È una grandissima cantante, così come Kim Wilde. Ho scelto canzoni classiche come Silent Night, Ave Maria, White Christmas o Have Yourself a Very Little Christmas. E poi canzoni più originali come Shake Up Christmas, una grande canzone pop rock uptempo, ma anche natalizia. Poi Fairy Tale of New York, che è bellissima e forse in Italia meno conosciuta. E poi canzoni come Driving Home for Christmas di Chris Rea. Tutti vogliono tornare a casa per Natale. Abbiamo passato molto tempo a scegliere le canzoni e a renderle un po' diverse dal solito. Ma qual è la canzone che a te ricorda i tuoi Natali da bambino? Silent Night è quella che mi ricorda quando ero bambino gli inni che cantavo in chiesa. Sì, Silent Night. Cosa pensi dell'amore che ancora circonda te, Tony, circonda gli Spandau ancora? Io ero al vostro tour, sono venuta al vostro tour l'anno scorso e c'erano mamme ancora giovani con i loro figli che insegnavano loro come amare e come conoscere gli Spandau Ballet. What do you feel about it? We're lucky. Siamo fortunati. Una cosa che posso dire è che c'è un rapporto tra gli Spandau Ballet e l'Italia, tra Tony Hadley e l'Italia. Gli Spandau Ballet non erano conosciuti in Italia prima di I'll Fly For You e da quel momento il pubblico italiano di tutte le età è sempre stato molto affettuoso con me e con gli altri ragazzi. Ogni volta che giro per l'Italia c'è qualcuno che mi chiama Tony, Tony! Sembra che mi riconoscano tutti. E poi io amo l'Italia. Ci vengo in vacanza con mia moglie. Mi piace il cibo, il vino, la moda. Adoro l'Italia. È un posto meraviglioso. Già che ci siamo, visto che abbiamo parlato tanto d'amore in questa puntata, devo confessarti che la canzone del mio primo amore invece è proprio I'll Fly For You. We will be singing that at the concert. La canterò nel live. Thank you very much. Come and say hello. Vienimi a salutare dopo il concerto. Ti prometto che canterò I'll Fly For You. Thank you very much. Grazie Tony. Grazie mille. Thank you. See you in Milan. Vabbè, eccola qua la canzone del mio primo amore. L'ho dovuto confessare a Tony Hadley, I'll Fly For You. Allora, 17, 18, 19 dicembre, Roma, Torino, Milano, Tony Hadley in concerto. Adesso però è il momento di lasciare la linea al giornale radio delle 17, poi la terza ora del sabato del villaggio, che è quella di Radio Tube.